notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Noi dobbiamo andare in campo con il pensiero di, non dico divertire, ma di rendere orgogliosi gli italiani di questa maglia. Ascoltatrici, cari ascoltatori, se dovremmo essere orgogliosi o meno della maglia della nazionale. Sapete che oggi è stato il primo giorno degli azzurri di Prandelli in Brasile e di questo parleremo, ci collegheremo direttamente con il Brasile, ma ci sono talmente tanti argomenti oggi di cui vi devo parlare insieme agli ospiti. Parleremo naturalmente degli sviluppi dell'inchiesta del Mose a proposito di orgoglio nazionale e poi parleremo dei Tasi, anche questo rientra nell'orgoglio nazionale, questa vicenda infinita della Tasi, dell'IMUX, ex ICI, adesso c'è un rinvio, insomma cercheremo di capire qualcosa anche di più sulla Tasi. Poi affronteremo anche l'argomento dei diritti civili. Domani c'è il Gay Pride a Roma e c'è stata una lettera aperta al Presidente del Consiglio Renzi da diversi militanti democratici. E poi ancora la rivelazione di Vodafone, secondo la quale diversi governi vogliono controllare la rete telefonica, insomma vogliono sentire, intercettare le comunicazioni degli utenti. Ce ne sono moltissimi di argomenti, quindi per voi aperti i due canali di partecipazione libera, che sono i messaggi, gli sms al 349-238-6666, oppure sempre lì per voi la pagina Facebook di Effetto Note. Su tutti questi argomenti potete esprimere la vostra opinione. Io intanto, proprio perché le cose sono tante, vado subito a riassumervi in breve la giornata di oggi. Il giudizio di Standard & Poor's sull'Italia, l'agenzia di rating conferma le previsioni sul nostro paese che restano negative. Bene Renzi dice mai presto per giudicare, la tendenza potrebbe comunque cambiare nel 2015. Ucraina, prove di disgelo nel vertice tra il presidente russo, quello ucraino, e la cancelliera Merkel a margine del D-Day in Francia. Putin commenta scambi positivi con i colleghi occidentali. Gli Stati Uniti superano la crisi, la disoccupazione torna al 6,3% come nel 2008. All'Italia dal CDA via libera la proposta di Etihad, avanti quindi con le trattative. L'inchiesta sul Mose, Galan dice non mi farò distruggere e Orsoni al GIP ribadisce la sua estraneità. Tasi, il Consiglio dei Ministri dà il via libera al rinvio per i comuni ritardatari. Stamina, nonostante lo stop dei medici, riprendono domani a Brescia i trattamenti. Vodafone rompe il silenzio, in un rapporto rivela che alcuni governi controllano le telefonate. Per il calcio, alla conferenza stampa in Brasile, Prandelli mostra grande ottimismo e dice non dobbiamo porci limiti. Quante notizie quindi? Partiamo dalla valutazione che del nostro paese fa Standard & Poor's. L'agenzia di rating conferma il giudizio sull'Italia e l'outlook, cioè la previsione, resta negativa. Le intenzioni del governo Renzi sono importanti, dice l'agenzia, però è presto per valutare. Per questo, per il momento, il giudizio sull'Italia non cambia e appunto la previsione resta per ora negativa. Potrebbe cambiare il trend nel 2015. Intanto i giovani imprenditori di Confindustria, riuniti a Santa Margherita Ligure per il loro 44esimo convegno, riconoscono al governo una fiducia a tempo che si misurerà, dicono, sulla capacità di rispettare gli impegni. Annunciano inoltre, sarà messo fuori dall'associazione chi corrompe e chi delocalizza all'estero e abbandona l'Italia pur avendo imprese che fanno utili. Ospite oggi del convegno era tra l'altro la ministra Boschi. Risponde punto per punto sulle prossime scadenze del governo il ministro per le riforme costituzionali Maria Elena Boschi al 44esimo convegno di Santa Margherita Ligure dei giovani imprenditori di Confindustria dal titolo Sapere, Fare, Impresa verso un nuovo umanesimo industriale e ascolta senza distrarsi per tutta la durata gli interventi di una mattinata dei lavori in cui si susseguono le richieste dei giovani imprenditori, un pressing cui contrappone fatti e scadenze. Io credo che il governo abbia già dato un segnale importante al mondo degli imprenditori con la riduzione del 10% dell'IRAP. A breve presenteremo anche un provvedimento che porterà ad una riduzione poi dei costi dell'energia per le piccole e medie imprese, quindi stiamo sicuramente cercando di avvicinarci alle richieste degli imprenditori, allo stesso tempo ovviamente incidendo poi su quella che è la disciplina del mercato del lavoro. E infine annuncio un termine anche per la riforma delle province già in atto e del Senato che dice entro l'estate. Anna Marino, Radio 24, Santa Margherita Ligure. E ora sentiamo l'intervista di Sebastiano Barisoni al presidente dei giovani di Confindustria, Marco Gai. Le imprese che oggi sono in Italia e fanno del profitto, quindi quelle imprese che vanno bene e delocalizzano la propria attività per andare a ricercare mano d'opera a basso costo, fanno un danno al territorio in cui sono insediate. tutt'altro discorso sono per le imprese che delocalizzano perché costrette a fuggire dall'Italia perché il sistema non le consente di continuare a essere competitive a casa loro. La differenza è molto netta. La responsabilità, l'orgoglio di avere un'impresa che va bene e poter continuare a produrre sul territorio dove sei nato deve essere un orgoglio. La delocalizzazione è intesa per quelle imprese che vanno molto bene qua e per magari aumentare qualche punto nella marginalità abbandona il territorio. Secondo me è una questione di etica, di responsabilità sul nostro territorio. Speriamo dunque che le aziende che vanno bene decidano di rimanere sul territorio invece di andare a risparmiare all'estero. Però intanto questa per l'economia italiana. Buone notizie arrivano per l'economia americana. Con la creazione a maggio di 217.000 posti di lavoro, gli Stati Uniti recuperano gli 8,7 milioni di posti persi in 6 anni. In particolare da settembre 2008, quando il fallimento della banca d'affari Lehman Brothers sancì l'inizio della crisi economica mondiale. Secondo i dati comunicati al Dipartimento del Lavoro, l'America ha raggiunto quota 138,5 milioni di lavoratori, superando i livelli occupazionali pre-recessione, ma con tempi di recupero eccessivamente lunghi che non si vedevano dalla Grande Depressione del 1930. Stabile il tasso di disoccupazione al 6,3%, minimi dal 2008, con l'economia che ha creato posti di lavoro in deciso aumento per il quarto mese di fila, risultato che non si registrava da 14 anni. A creare lavoro è stato in primis il settore istruzione e servizi sanitari, seguito da professioni, turismo e ristorazione e manifatturiero. Ha perso quota invece il settore pubblico. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo invece delle prove di disgelo oggi tra Russia e Ucraina con la mediazione tedesca e francese. L'occasione è stata quella delle celebrazioni per i 70 anni dello sbarco in Normandia, il cosiddetto D-Day, a cui erano presenti tutti i leader mondiali. Uno scambio normale e importante tra due leader, così l'entourage del presidente francese François Hollande ha definito il meeting, è durato una quindicina di minuti tra i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Petro Poroshenko, incontratisi a margine delle celebrazioni per i 70 anni dello sbarco in Normandia. Secondo l'agenzia Interfax, Putin e Poroshenko si sono detti favorevoli a fermare al più presto lo spargimento di sangue nell'Ucraina orientale, ponendo fine al conflitto armato. I due hanno posato insieme anche nella foto di famiglia. Secondo fonti transalpine, il colloquio tra i due presidenti ha riguardato le possibili misure per avviare una de-escalation della crisi, includendo le modalità con cui Mosca potrebbe riconoscere l'elezione di Poroshenko. L'incontro pone le basi per aprire la strada a un vero e proprio cessate il fuoco, i cui dettagli dovrebbero venire discussi nei prossimi giorni. Vietato però cedere a facili ottimismi. I due presidenti russo e ucraino a tavola sono stati prudenzialmente messi a 9 posti di distanza. Senza ricorrere alla cabala, 9 posti, come i 9 mesi da cui si trascina la crisi ucraina, che ha innescato e rinfocolato forti divisioni tra est e ovest. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La bandiera americana sventola sulla sabbia di Omaha all'alba di questo 6 giugno 2014. 70 anni fa i mezzi da sbarco raggiunsero la Normandia all'alba. Le truppe aerotrasportate erano state paracadutate con il favore della notte. 160.000 uomini arrivarono sulla costa settentrionale francese, americani, canadesi, francesi, inglesi e polacchi. Alla fine di quello che tutti ricordano come il giorno più lungo, i morti furono oltre 10.000. Gli alleati ebbero la meglio, non subito però. Fu l'effetto sorpresa a giocare un ruolo determinante. La prima commemorazione a Caen, al memoriale per i caduti francesi. Hollande è stato il primo a parlare. Celebriamo una giornata memorabile per la nostra storia, dice il presidente francese, che più tardi al fianco di Obama a Colville-sur-Mer afferma come i francesi non dimenticheranno mai quanto gli americani hanno fatto, in nome del sogno e della passione comune per la libertà. Oggi anche noi vi ringraziamo, risponde Obama, parlando di fronte a migliaia di persone. Alle spalle la distesa di croci bianche, oltre 9.000, una per ogni soldato americano. Poco dopo a Bonneville si ritrovano 20 tra capi di Stato di governo. La foto li ritrae sulle scale del castello. Poi la commemorazione sulla spiaggia a Ouistreham. Nella grande arena, a pochi passi dal mare, la stretta di mano dei presidenti ai veterani. Voi ci trattate da eroi, ha detto qualcuno di loro, ma noi abbiamo fatto solo il nostro dovere. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo adesso all'inchiesta sul Mose. È stato sentito questa mattina nell'aula bunker di Mestre il sindaco arrestato di Venezia, Giorgio Orsoni, che ha ribadito la sua estraneità. Ma poi degli sviluppi dell'inchiesta parleremo tra pochissimo. Passiamo invece dall'Italia. Oggi è arrivato il via libera alla proposta di Etihad dal consiglio di amministrazione della compagnia italiana. Avanti tutta sulla trattativa con Etihad, il CDA di Alitalia dà mandato ai vertici dell'azienda di chiudere l'accordo con la compagnia degli Emirati Arabi, che dovrebbe entrare nel capitale del vettore italiano fino al 49%, con un investimento compreso tra i 500 e 600 milioni di euro. Un via libera arrivato dopo un consiglio di amministrazione durato oltre 5 ore, durante il quale è stata esaminata la proposta arrivata nei giorni scorsi da Etihad e al termine del quale è stato diramato un breve comunicato. Il CDA di Alitalia, così si legge nella nota, ha espresso apprezzamento per la proposta e ha delegato il presidente e l'amministratore delegato a proseguire le trattative finalizzate alla stesura di un accordo definitivo con la compagnia emiratina. Si procede dunque, ma rimangono ancora due nodi da sciogliere, quello della ristrutturazione del debito con le banche e quello degli esuberi, punto questo sul quale si aprirà una trattativa con i sindacati, i quali sono stati già convocati per il prossimo 12 giugno, mentre il giorno dopo ci sarà un nuovo CDA per l'approvazione del bilancio del 2013. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E dall'Italia alla RAI, sapete di questo annunciato sciopero dell'11 giugno dei dipendenti RAI e della polemica che c'è stata, dello scontro piuttosto forte tra governo Renzi in particolare, diciamo, e la CGIL di Susanna Camusso. Adesso i dipendenti sono divisi in vista dello sciopero previsto per l'11 giugno, potrebbe anche essere annullato. Sentiamo. Da una parte dipendenti, dall'altra i giornalisti, in mezzo mamma Rai. Lucy Grey si sfila e sospende lo sciopero previsto per l'11 giugno per i tagli di 150 milioni di euro chiesti dal governo Renzi all'azienda di emittenza pubblica. Il sindacato dei giornalisti Rai rivendica di essere riuscito ad ottenere che si mettesse al centro dell'agenda politica il futuro e lo sviluppo della Rai. Ora attende di vedere se il governo è in grado di tenere il passo della sfida riformatrice o sono solo annunci. Resta comunque la contrarietà alla vendita di Rai Way, fatta solo per fare cassa, e la convinzione che il prelievo di 150 milioni di euro sia illegittimo. Confermano invece l'astensione dal lavoro CGIL e UIL, che difendono i dipendenti Rai, mentre si sfila la CISL di Raffaele Bonanni. Per Massimo Cestaro della CGIL i 150 milioni sono un imbroglio ai cittadini che pagano il canone. Per Luigi Angeletti della UIL lo sciopero scongiurato non è il nostro. Vogliamo che il governo costringa la Rai a tagliare gli sprechi, ma non siamo d'accordo che riduca le potenzialità d'impresa. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E c'è un nuovo capitolo nella lunghissima vicenda Stamina. Nonostante lo stop deciso dai medici di Brescia e in attesa del pronunciamento della nuova commissione, da domani riprendono i trattamenti. L'infusione la farà personalmente lui, Marino Ondolina, braccio destro di Davide Vannoni e colui indagato dal Tribunale di Torino per associazione a delinquere e truffa. L'annuncio, arrivato dallo stesso vicepresidente di Stamina Foundation, nominato commissario ad acta dal Tribunale di Pesaro, è stato confermato dal direttore generale degli ospedali civili di Brescia, Ezio Belleri. Il Tribunale di Pesaro, che si è pronunciato a favore del prosieguo delle cure per un piccolo paziente, Federico, affetto dal morbo di Crabbe, ha incaricato Ondolina di trovare medici disponibili a continuare le cure con il metodo Stamina. Nessuno però si è offerto, in attesa come sono i clinici della pronuncia della nuova commissione del Ministero, e così Ondolina procederà da solo con l'ausilio della biologa di Stamina, Erika Molino, domani mattina alle 10 all'ospedale di Brescia, dove il personale sarà comunque pronto ad intervenire in caso di emergenza. Intanto, sulla decisione del Tribunale di Pesaro, il CSM ha inviato un fascicolo alla Procura Generale della Cassazione, riprova che intorno al discusso metodo di Vannoni si è creato un vero e proprio cortocircuito giudiziario. La Regione Lombardia ha inviato oggi al Premier Renzi e ai Ministri della Salute e della Giustizia una lettera affinché finalmente il legislatore intervenga dopo i continui e contraddittori pronunciamenti della magistratura. Roberta Pellegatta, Radio 24, il Sole 24 Ore. E poi parleremo anche della denuncia di Vodafone rispetto a vari governi. Vi dicevo che pretendono di ascoltare le conversazioni degli utenti. Per il calcio, visto che il primo giorno della nazionale di Prandelli in Brasile, ci collegheremo direttamente con il Brasile, ma più tardi. Intanto leggo velocemente, prima della viabilità, alcuni vostri messaggi. Per esempio, chiede un'ascoltatrice, ascoltatore al 349-238-6666, mettete un nome, anche così, di fantasia. Dice, se hanno deciso di andare all'estero, si riferisce alle aziende, al discorso del presidente dei giovani Confindustria Gai, dice: se hanno deciso di andare all'estero, cosa può loro interessare l'esclusione dall'associazione, cioè coloro che delocalizzano pur avendo degli utili qui in Italia? Insomma, è una domanda alla quale in questo momento effettivamente io personalmente non saprei cosa rispondere. Effettivamente, se vanno anche all'estero, però comunque fanno parte, continuano a far parte di Confindustria. E poi invece Anna dice: boicotto i mondiali del Brasile per protesta contro i diritti dei poveri violati, tipo sfratti di massa e violenze sui bambini di strada. Anche questo purtroppo succede in Brasile, è un paese complesso e anche molto violento. E poi Gigi invece sulla pagina Facebook di Effetto Note dice: perché i radiogiornali di Radio 24 omettono sistematicamente la provenienza politica dei politici corrotti, Orsoni del PD come la Boschi e Renzi, Galan di Forza Italia, perché lo nascondete? Non mi sembra che nessuno lo nasconda, forse non viene ripetuto costantemente ogni volta che vengono menzionati questi nomi, ma l'abbiamo detto e continuiamo a ripetere naturalmente. Adesso la viabilità, ci troviamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, moltissimi, vi dicevo, i fatti da raccontarvi e naturalmente da parte vostra sempre la libertà di fare i vostri commenti, naturalmente possibilmente in modo civile, sia sulla pagina Facebook di Effetto Note sia con gli sms al 349-238-6666. Tra pochissimo parleremo degli sviluppi dell'inchiesta sul Mose, però se avete acceso in questo momento e non alle 21 puntuali, vi ricordo comunque le notizie principali. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia, cioè le previsioni in negativo, e poi dice presto per giudicare il lavoro di Renzi. E poi c'è l'effetto Draghi sullo spread che va a 140. Il Mose, Galan dice: scaricano su di me le nefandezze di altri. Orsoni, il sindaco al GIP, dice: non c'entro niente. E poi il capo dell'anticorruzione Cantone esclude che ci possa essere un commissariamento dei lavori. Aldi Day in Normandia, faccia a faccia tra Obama e Putin, colloqui sostanziali, basta sangue in Ucraina, e Putin dice: ho avuto colloqui positivi con i colleghi occidentali. Questa denuncia della Vodafone, dice: l'Italia è al top nei controlli legali dei dati, il garante per la privacy dice è intollerabile, ci sono 6 paesi in questo rapporto Vodafone che intercettano. Poi c'è un decreto ponte per la Tasi, ok, il rinvio nei comuni ritardatari. All'Italia ultimo atto dal Consiglio di amministrazione, il mandato per chiudere con Etihad, il ministro Lupi dice ora andiamo avanti spediti. E poi per i mondiali l'Italia nazionale è a Rio de Janeiro, Prandelli dice bisogna cambiare e con ottimismo. Quindi dicevamo gli sviluppi dell'inchiesta, dalle carte dell'inchiesta della Procura di Venezia su una presunta, chiamiamola ancora così, corruzione negli appalti per il Mose. Viene fuori un sistema illecito che per anni avrebbe visto, come abbiamo detto in questi giorni, imprenditori pagare stipendi veri e propri a politici e autorità incaricate di vigilare sulla correttezza dei lavori per ottenere in cambio favori e per evitare i controlli. Ma diciamo una cosa interessante è che a confermare queste cose, almeno per il momento, dalle carte, ci hanno pensato le dichiarazioni dei redditi. È vero, Sara Monaci del Sole 24 Ore? Ciao Sara. Sì, ciao. Le dichiarazioni dei redditi in effetti sono piuttosto eloquenti perché in effetti la disponibilità e le reali risorse erano molto diverse, per cui incrociando le spese reali e le denunce dei redditi non sarebbero tornati conti, e anche quanto emerge dall'indagine che ha permesso appunto la ricostituzione di questa serie di fondi neri che poi sono finite nelle tasche non soltanto di politici ma anche di uomini di impresa e ancora peggio di coloro che erano addetti ai controlli. Quindi si tratta di questa cupola veneta di 35 persone. Quindi sì, dalla denuncia dei redditi e soprattutto da questo scambio ricostruito con triangolazioni anche all'estero sarebbero poi facilmente emersi, dice la procura e i procuratori molto attenti che da tempo effettuano le indagini, perché non solo sono stati commessi anche delle leggerezze, questo ci è stato spiegato a Venezia, perché evidentemente alcuni fondi, alcuni bonifici sono stati fatti con leggerezza in luoghi come ad esempio la Svizzera, dove in realtà il segreto bancario si è fortemente indebolito negli anni e addirittura sono stati utilizzati dei prestanome che erano di facile intuizione, ad esempio la moglie, quindi in alcuni casi diciamo, o parenti, per cui diciamo la ricostituzione di tutto ciò che era stato secretato attraverso sovraffatturazioni e riciclaggio e quella che tecnicamente si chiama esterovestizione, quindi lo spostamento di fondi all'estero, è stato poi ricostruito diciamo con una relativa facilità, ecco. Tra l'altro, a parte si fa l'esempio, non so, del tenore di vita di Galan, ex governatore della regione Veneto, sì. No? Composta la sua famiglia dall'ex governatore, dalla moglie e dai loro due figli, ha dichiarato dal 2000-2011 entrate di poco superiore a 1.400.000 di euro, valore decisamente inferiore a quello delle spese fatte dai quattro nello stesso periodo scovate dagli uomini della Guardia di Finanza, sì. Oltre 2.600.000. Oltre 2.600.000 nei 10 anni, il bilancio dei Galan risulta in rosso per 1.200.000 e così per gli altri, insomma. Beh, non ci dimentichiamo che almeno proprio studiando, vi dico proprio questa sera meglio le carte, mi sono anche accorta di ciò che è ulteriormente nascosto da questi conti. Non si parla soltanto di denaro e quindi anche di vantaggi, perché ricordiamo che Galan tra i vantaggi annovera anche la ristrutturazione di una casa, sì. di un valore molto alto, che sarebbe stato effettuato da una società che aveva poi a sua volta l'incarico di drenare e una sovraffatturazione, quindi riceveva denaro e la faceva tornare indietro a Galan o a qualche altro personaggio, con Galan non necessariamente il denaro ma anche appunto la ristrutturazione per un ammontare molto alto, quindi i favori si possono anche contare in questo modo, certo. Non necessariamente appunto un conto corrente e contanti, si tratta di case, ma c'è ancora altro, si tratta di società di quote azionarie, di società dove però non risulta mai se non attraverso un prestanome che poi era anche il suo commercialista. Per quale motivo vuole le quote di società e lo tiene nascosto? Perché chiaramente si tratta di società che attraverso la regione avrebbero avuto dei vantaggi in alcuni progetti, in alcune project financing, e lui ne avrebbe intascato gli utili. Quindi diciamo che la rete di benefici non è semplicemente un bonifico bancario. Soldi, ma è molto più complessa. Sara, sì. Dico quest'ultima cosa e poi ci salutiamo. Tra l'altro l'Europa chiese all'Italia che i controlli ambientali sui lavori del MOSE fossero affidati un organo non coinvolto nei lavori, quindi indipendente, ma grazie all'intervento dell'assessore Renato Chisso, che è un altro, sì. tra gli arrestati, sì. il monitoraggio tornò sotto il controllo di quegli uomini che in Regione Veneto venivano, secondo l'accusa, regolarmente stipendiati dal consorzio Venezia Nuova, sì. che gestisce, insomma. Diciamo che poi lo scandalo è un po' questo, la particolarità di questa inchiesta è prima di tutto che mette in luce un sistema prima di tangenti, ma non solo tangenti, semplice anche ridistribuzione di denaro, e la particolarità rispetto alla tangentopoli del 92 è l'utilizzo totale di fondi pubblici, quindi si prendono fondi, si sovraffattura e quindi si pagano i politici che aiutano a sbloccare dei fondi bloccati ad esempio nel CIPE ed evitare i controlli. Esatto, poi sì, semplicemente con questo meccanismo i soldi passano al consorzio Venezia Nuova, il consorzio Venezia Nuova non fa altro che affidare con una sovraffatturazione un incarico, questo incarico il 50% servirà a pagare l'effettivo lavoro svolto, il 50% invece verrà con questo meccanismo, dicevo, di esterovestizione di bonifici bancari all'estero, utilizzato per ripagare sia gli stessi imprenditori con fondi neri, gli stessi politici che aiutavano, ma non solo, proprio quelle persone che erano addette ai controlli, Guardia di Finanza, Magistrati delle Acque e Corte dei Conti. Un intreccio, incredibile, esatto, incredibile, magari esatto. Altro verrà fuori. Sara Monaci, io ti ringrazio e avremo modo di risentirci per gli sviluppi. Sì, allora, prego. Ciao, grazie Sara. Ciao. Ciao. Adesso invece, a proposito di sviluppi, una saga infinita con Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore. Ciao Cristiano. Buonasera. La Tasi, no? Che pazienza a parlarne. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un rinvio del pagamento per i comuni ritardatari, quindi si sposta al 16 ottobre per i comuni ritardatari. Tra l'altro, tra le varie iniquità di questa tassa, il fatto appunto che tante aliquote diverse nei comuni, il fatto che doveva essere tolta, poi è stata rimessa, poi buttata dalla porta, rientra dalla finestra, ma anche il fatto che qualcuno la pagherà prima e qualcuno invece la pagherà dopo, in tutto questo caos. Assolutamente, proprio così. Oggi il Consiglio dei Ministri ha formalizzato un rinvio che di fatto era già noto da qualche giorno. Cosa succede? Che nei comuni che hanno inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze le delibere sulla TASI entro il 23 maggio scorso, e poi le delibere sono state pubblicate entro il 31 maggio sul sito delle Finanze, quindi questa è la data chiave, pubblicazione sul sito del 31 maggio, bene, in questi comuni si va alla cassa entro il 16 di giugno, quindi con la scadenza allineata al pagamento dell'acconto dell'IMU. Negli altri invece il pagamento slitta. Poi a ottobre, diciamo tendenzialmente al 18 di ottobre, altrimenti si va addirittura al 16 di dicembre nel caso i comuni ritardassero ancora. Diciamo comunque che l'informazione importante è che i comuni in cui si pagherà il 16 di giugno sono indicativamente 1 su 4, quindi la maggior parte dei proprietari e dei contribuenti non pagherà la TASI al momento dell'acconto, e tra l'altro possiamo dire che all'appello mancano anche grandi città come Roma o Milano che non hanno ancora deliberato. Quindi anche per Roma e Milano, lo dico anche per me stessa, Milano, si rimanda questa cosa, a giugno niente TASI. Non si paga la TASI, non per altro, perché tra l'altro un'altra ingiustizia secondo me, inadempienza, è quella di non mandare dei benedetti bollettini a casa, no? Che tante persone, immagino magari meno informate o con difficoltà eccetera, magari non ci pensano neanche, ma non perché non vogliono pagare, perché non gli arriva a casa. Speriamo che il governo Renzi, a proposito di semplificazione burocratica del 730 che dice arriverà a casa, certo, tutto come, anche questa cosa, un bollettino che arriva a casa, uno lo vede, dice devo pagare questa e vado a pagare. Sì, tra l'altro la legge nella sua versione iniziale lo prevedeva, poi i tempi ormai sono così stretti che se pensiamo a un comune grande, adesso abbiamo fatto il caso di Milano e Roma e Milano che non hanno deliberato, però per esempio Torino ha deliberato, Bologna ha deliberato, ecco, in queste città in ogni caso se la delibera è arrivata ai primi di maggio non è facile organizzare in poche settimane la spedizione di decine e decine di migliaia di bollettini o di modelli F24. Ci auguriamo che quelli che hanno più tempo compensino facendo il bollettino. Gli è stata data la possibilità di rimandare, vediamo se almeno manderanno questo bollettino, Cristiano. Poi ci informi tu su questo, se ci fossero novità. Va bene? Staremo a vedere. Grazie Cristiano Dell'Oste, buon lavoro. Grazie, buona serata. Ciao Cristiano. Bene, io direi adesso una pausa di riflessione, di temi ne abbiamo già affrontati, ne affronteremo poi altre. A proposito di diritti civili, domani c'è il Gay Pride a Roma, sentiremo il PD che intenzioni ha sul governo, insomma, su questi temi, visto che c'è stata una lettera aperta di cui parleremo. Poi parleremo della rivelazione della Vodafone, anche se non è una cosa così del tutto nuova, però forse è la prima volta che se ne parla in modo così chiaro. Pausa di riflessione, per voi, per i vostri commenti, la pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, ve le ricordate le notizie? Tra poco ve le riassumo, però stavo guardando anche i vostri messaggi. Riccardo che preferirebbe non riascoltare sempre i titoli, ma tante persone si mettono all'ascolto in momenti diversi, caro Riccardo. E poi Piero dice: come mai nessun giudice indaga sui traghetti che operano sullo stretto di Messina? È una vergogna, chissà quanti parassiti ci mangiano. E poi ci sono diversi ascoltatori e ascoltatrici che ci tengono a far sapere che nelle loro città sono già arrivati i bollettini. A Bologna la Tares e Tasi arrivano a casa, io già l'F24, dice Gianni. E poi ancora Ferrara, il bollettino in due rate è arrivato ieri. Ciao Carlo, fa piacere insomma ci siano delle città efficienti in questo senso e che vanno incontro al cittadino. Poi ce ne sono molte altre, però prima vi ricordo i fatti, poi dobbiamo parlare di altri diversi temi. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia, che per il momento è ancora negativo, e presto per giudicare, dice, il lavoro di Renzi. Il Mose, Galan dice che scaricano su di me le nefandezze di altri. Orsoni, il sindaco al GIP, conferma: io non c'entro niente. E il presidente dell'anticorruzione Cantone esclude che ci sia un commissariamento dei lavori. Aldi Day in Normandia, faccia a faccia tra Obama e Putin, e Putin dice ci sono stati colloqui sostanziali e positivi. La denuncia di Vodafone: l'Italia è al top dei controlli legali dei dati. Poi per la TASI avete sentito il rinvio di molti comuni per ottobre, per il 16 ottobre, e poi parleremo anche dei mondiali, l'Italia a Rio de Janeiro. Allora, leggevo ancora un vostro messaggio e poi parliamo del nostro tema. A proposito di dichiarazione dei redditi, dice un ascoltatore: io lavoro in uno studio commercialista, devo ringraziare il Consiglio dei Ministri per aver approvato all'ultimo momento, manca una settimana, il decreto IRPEF. Grazie a questa vergogna, dice, trascorrerò il weekend a lavorare per far trovare lunedì l'F24 ai miei clienti. Capite perché va male l'Italia? Adesso parliamo di diritti civili. Allora, domani c'è il Gay Pride di Roma, parte alle 15 da Piazza della Repubblica, sapete, la consueta manifestazione corteo annuale per i diritti gay, e quest'anno la manifestazione ha questo titolo: per la libertà a prescindere dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. E in occasione di questo evento e in occasione dell'iniziativa di un militante toscano del Partito Democratico è nata una lettera aperta pubblicata in anteprima dall'Espresso dal titolo Diritti Democratici, indirizzata al Presidente del Consiglio Renzi per fare il punto un po' su quello che manca, insomma, qual è la roadmap sui diritti civili. E questa lettera, che ha raccolto molti sostenitori all'interno appunto della base del Partito Democratico, si inizia così: dice: caro Matteo, c'è posto per i gay nel tuo PD? E allora questa domanda la giro all'onorevole Davide Faraone, responsabile del welfare del PD, che saluto, bentornato onorevole Faraone. Buonasera, grazie. Che dice, c'è posto nel PD per i gay? Ma senz'altro, nel senso che noi... Credo che la domanda, ho letto anche chi sono un po' i firmatari di questa lettera, sono persone che hanno anche in molti casi sostenuto Matteo Renzi già alle elezioni primarie e sanno benissimo che uno dei punti su cui Matteo Renzi ha raccolto il consenso alle elezioni primarie e su cui anche il Partito Democratico ha costruito il suo consenso alle elezioni europee è proprio andare avanti rispetto alle unioni civili e ai diritti civili che in questo paese sono assolutamente gestiti e trattati come se fossimo nella preistoria. Per cui da questo punto di vista abbiamo intenzione già nelle prossime settimane di avviare un confronto in Parlamento per poter far andare avanti questo processo riformista anche in questa direzione. Bene, quindi questa consapevolezza c'è. Lei sa che tra l'altro in questa lettera aperta dicono i sostenitori e i firmatari: la nostra prima richiesta è quella di ottenere un incontro con il responsabile welfare della segreteria nazionale, cioè l'onorevole Davide Faraone. Quindi voglio prima di tutto incontrare lei. Ho letto la lettera, in molti punti la condivido e ho già dato la mia immediata disponibilità a incontrarli. Tra l'altro ho avuto modo di incontrare associazioni che si occupano di queste questioni già nelle settimane passate, poi c'è stata la campagna elettorale delle elezioni europee che ha un po' attirato l'attenzione su altre questioni, ma è chiaro che già dalla prossima settimana mi attiverò affinché questo incontro si possa fare al più presto possibile. Quindi la prossima settimana questo incontro, poi onorevole Faraone, quindi non ci sarà, come in molti casi, non dico il suo partito, ma in genere, insomma, chi difende i diritti civili, che poi dice ma le questioni principali sono altre, le priorità sono altre, si continua a rimandare. Lei ha già detto che nelle prossime settimane quindi il benaltrismo, il famoso benaltrismo, non ci sarà assolutamente, nel senso che noi reputiamo questa una priorità. E reputiamo questa una priorità al punto tale da metterla in agenda, ripeto, nelle prossime settimane. Su questi temi speriamo di riuscire a trovare un confronto leale e serio con le forze politiche che sostengono la maggioranza. Sarà un po' difficile, no? Immagino. Ci rivolgeremo infatti all'intero Parlamento e credo che all'interno del Parlamento italiano ci sia una stragrande maggioranza di parlamentari che sia a favore di un progresso anche rispetto a questi temi. La sto per lasciare, mi dica solo il primo punto, la prima cosa che vorrete fare, insomma, che avete intenzione di fare. Il tema è innanzitutto sono le unioni civili. Noi stiamo spingendo innanzitutto tantissimo la nostra azione di governo sul rafforzamento della famiglia e stiamo sostenendo tutta una serie di iniziative che agevolino le famiglie numerose da un punto di vista di defiscalizzazione e quant'altro. Dall'altro lato vogliamo garantire anche in Italia la possibilità delle unioni civili, dopodiché la formula migliore che metteremo in campo la vedremo nei prossimi giorni, ma credo che questo sia indispensabile, questa idea di unioni civili che si possa anche praticare in Italia. Sarà mica il Gay Pride lei domani a Roma, no? O qualcuno del PD? No, purtroppo sono in chiusura di campagna elettorale in questo momento a Bergamo. e poi domani sarò a Palermo, però ci saranno molti esponenti del PD. Bene, la ringrazio onorevole Faraone. Grazie a voi. Buona campagna allora. Grazie. Intanto vedo che è entrato il mio collega Enrico Pagliarini, che potete trovare tutti sabato alle 15 con 2024. Ciao Enrico. Buonasera, ciao. Enrico, chiedo di questa rivelazione, qualcuno dice rivelazione shock della Vodafone, in realtà non è shock, si sa non da è tempo shock. Che i governi controllano, abbiamo visto il caso Snowden, no? Che intercettano eccetera eccetera, però è la prima volta forse che un grande operatore, uno dei più grandi al mondo di telefonia, Vodafone, rompe il silenzio e dice ci sono dei governi che hanno una rete sì. Per ascoltare, intercettare. Pretendono, insomma. Allora, è un rapporto interessante e va dato atto a Vodafone della trasparenza che ha introdotto nel sistema con questo rapporto. Spieghiamo che tutti gli operatori facciano lo stesso, perché sostanzialmente hanno detto: allora, nei paesi dove noi operiamo, e sono 29, la situazione è questa: sono 90 pagine, e la situazione è che in. Il rapporto di 90 pagine. Sì, 90 pagine di questo rapporto. La situazione è che in 23 paesi, grosso modo. Quando c'è una intercettazione, o non solo un'intercettazione, l'autorità vogliono dei dati di navigazione su internet, oppure di quando noi telefoniamo al cellulare, eccetera, eccetera, si rivolgono alla magistratura e la magistratura decide se questi dati, se l'operatore deve poi dare, cosa che accade ad esempio in Italia e in tutti gli altri paesi. Ci sono, questo è un po' forse il dato che ha fatto così balzare. L'Italia è uno dei primi posti, no? Sì, ma poi parliamo anche dei numeri del controllo dei dati in Italia. Diciamo, c'è un'altra cosa particolare, perché Vodafone ha detto in 6 di questi paesi, di questi 29 paesi, invece sappiate che sulla nostra rete il governo ci va direttamente, quindi i dati se li prendono i governi in questi 6 paesi, se li prendono da soli. Non sono stati svelati. L'Italia non c'è. No, non c'è. Allora, no, chi lo sa, non si sa. Perché, non si sa. No, non si sa. Perché? Non sono stati svelati questi 6 paesi, però è presumibile che, essendo Vodafone il secondo operatore mondiale dopo China Mobile, che è solo in Cina, in 29 paesi, ed essendo presente in, cito così, degli stati dove insomma la democrazia è relativa, un po', diciamo, relativa, così. Tipo l'Egitto, tipo il Qatar, il Ghana, il Congo. Ecco, probabilmente in alcuni di questi, anche in India, magari il governo vuole vedere qualcosa di più precisamente. Ecco, in questi paesi probabilmente, è un'ipotesi che facciamo noi, che fanno anche altri, in questi paesi il governo ha fatto leggi per cui può entrare direttamente nella rete, quindi l'operatore ammette che non ha un controllo sulla rete. Per quanto riguarda l'Italia, l'unico dato forse interessante è che lo scorso anno sono state fatte più di 600.000 richieste di dati, però attenzione, queste 600.000 richieste potrebbero. Si spera, anzi, che sia in caso di reati, no? Sì, oppure di indagini che sono, magari anche tu sei stato indagato, la magistratura ha chiesto, che ne so, i dati di navigazione del tuo cellulare, che non necessariamente corrispondono alle intercettazioni. Alle telefonate. Una cosa sono verso le intercettazioni, chi, ma dal cellulare si può sapere dove ti trovi, a che ora l'hai accesa, a che ora l'hai spento, a chi hai fatto una telefonata, senza sapere poi il contenuto, a chi hai mandato degli SMS. Queste 600.000 richieste fatte solo a Vodafone, quindi bisognerebbe poi assommarle a tutti gli altri operatori, non sono necessariamente 600.000 persone che in qualche modo sono state intercettate, potrebbero anche essere su una sola persona 100.000 esagerare. Esattamente, quindi naturalmente, essendo molto alta la criminalità nel nostro paese, questo è un dato che non ci sorprende, che effettivamente rientra in dati che conoscevamo già. Quindi da un certo punto di vista nessuna sorpresa, anzi mi sorprendo di chi si sorprende. Di questo ti chiedo solo in un minuto, Enrico, diciamo 40 secondi, sì. Perché Vodafone l'ha detto? Beh, perché sicuramente è un operatore britannico, quindi in Gran Bretagna c'è un dibattito come negli Stati Uniti un po' più elevato rispetto all'Italia, perché è stato svelato, Snowden aveva svelato che anche i servizi segreti britannici spiavano, e io direi spiano ancora, e sicuramente nella scia di questo dibattito l'operatore ha ritenuto necessario fare metto questa, le mani avanti, vi dico che le cose vanno così, che vanno così. Certo, ci manca qualche dettaglio, magari però, alla prossima puntata, alla prossima puntata, esatto. Buonasera, grazie Enrico Pagliarini, sabato domani alle 15 con 2024. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccomi per parlarvi di Europa, del fatto che giugno è un mese destinato a essere dominato dai negoziati, no, per la nomina della presidenza della Commissione europea. Ma dove andrà l'Europa dopo le elezioni europee? Sergio Nava lo ha chiesto a Daniel Gross, direttore del Centro per gli Studi Politici Europei. Europa 24 notte. È un'Europa che non sa bene quello che vuole, che non sa bene quale futuro avrà, ma sa anche, nella maggioranza almeno, di essere indispensabile. È strano vedere come alla fine abbia vinto lo schieramento che ha perso di più. Cioè i conservatori sono quelli che hanno subito le maggiori perdite, circa 7 punti percentuali, ma hanno vinto. Una vittoria di Pirro, per dirla all'italiana. Questo succede spesso. Era il partito che era di gran lunga più grande nel Parlamento europeo. Ha perso consensi soprattutto all'ala più euroscettica, ma rimane pur sempre lo schieramento più importante. Bisogna tenere conto che gli schieramenti nel Parlamento europeo sono sempre dei agglomerati di partiti sempre molto diversi. In una certa misura è un po' arbitrario dire i socialisti sono più piccoli o più grandi dei conservatori, perché molto dipende se si magari aggiunge o si toglie un partito nazionale da questi gruppi. Che messaggio secondo lei hanno voluto mandare gli elettori con questa onda euroscettica che ha colpito soprattutto in Francia e in Gran Bretagna? È un messaggio contro l'Europa o un messaggio più interno ai rispettivi leader, cioè a François Hollande e a David Cameron? Secondo me è un messaggio soprattutto ai loro leaders e al loro sistema politico. Non sono contenti di come vanno le cose a casa, non sono contenti di come funziona la democrazia a casa. Prendiamo l'Inghilterra. Lì c'è un sentimento molto diffuso che il consenso per l'Unione Europea sia stato rubato. Il Parlamento inglese ha dato il suo consenso a tutti i trattati, a tutte le decisioni europee, in una forma normale, quella della democrazia inglese. Per cui, se chi dice l'Europa non ci ha chiesto il nostro consenso, in Inghilterra dice praticamente la nostra forma di democrazia non funziona più. E in Francia si vede che c'è un sentimento molto diffuso che la situazione socio-economica è molto grave, ma che questo sia la colpa degli altri, dei politici o dell'Europa, qualunque altra cosa, ma non i francesi stessi. E questo naturalmente è un fenomeno molto difficile da vincere. E quanto invece però c'è stato di messaggio contro l'Europa, di una voglia di meno Unione Europea? C'è stato un messaggio di noi vogliamo questa Europa e tutta questa forma di democrazia molto complessa tra livello nazionale ed europeo, ma non c'è nessuno che abbia proposto un'alternativa chiara. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E dall'Europa fiondiamoci subito in Brasile, a Rio de Janeiro, dove c'è per noi Dario Ricci, che sta seguendo la nazionale. Dario, allora, oggi Berlusconi ha detto, a proposito di Inzaghi, ho visto Inzaghi affamato di vittorie. Tu cosa hai visto lì in Brasile? Beh, ho visto famelici che sono le zanzare, innanzitutto. Perché, e tra l'altro, secondo te, Roberto, siamo quasi a Rio de Janeiro, e quel quasi non è poco, perché siamo nella zona di Mangaratiba, a un centinaio di chilometri lungo la costa da Rio de Janeiro. In particolare ora vi parlo dal Portobello Resort, che è il luogo dove il nome già rimanda alla tradizione italiana, ma è il luogo proprio dove gli azzurri si allenano, e hanno da poco terminato il loro primo allenamento brasiliano. Niente di troppo faticoso, perché chiaramente dopo il viaggio di questa mattina, una cosa leggera, un brodino, come dice qualcuno, qualche un po' di stretching, qualche palleggio, qualche lungo, rimasta a riposo Sirigu, chiaramente anche Barzagli, che sono un po' i due giocatori un po' più a rischio, le cui condizioni ancora un po' preoccupano. però insomma si sono visti i primi palleggi in terra brasiliana degli azzurri, così come oggi ci sono state anche le prime dichiarazioni. Dario, forse riusciamo a sentirla brevemente, una dichiarazione, sì, dai, di Prandelli. Facciamolo. Dai, facciamolo, via. Dai, facciamolo, dai. Dai, vediamo se lo sentiamo. C'è? Sì. Noi dobbiamo andare in campo con il pensiero di, non dico divertire, ma di rendere orgogliosi gli italiani di questa maglia, quindi lottare su ogni pallone caratterialmente, cercare di non essere negativi, di essere propositivi, di andare oltre la difficoltà, di far capire che l'italiano comunque anche nella difficoltà fa squadra, anche nella difficoltà vede una speranza, vede qualcosa che può realizzare. Quindi noi cosa possiamo vedere? Che la nostra squadra come gioco, come insieme di gioco, possiamo essere più bravi degli altri, perché no? Questo dobbiamo pensare e noi stiamo lavorando per questo. Eh beh, certo, che altro può dire un allenatore che deve un po' incoraggiare, sostenere, no Dario? Ora quasi una sfumatura renziana, ecco. Un afflato renziano, no? Sì, si legge in questa. Poi lui è renziano, che... per cui... capota, però insomma ci è piaciuto, per me è stato convincente. È chiaro che poi, Roberto, è chiaro, anche qui il campo darà poi il verdetto. Domenica intanto affrontiamo questa amichevole con Fluminense a Volta Redonda, che comunque Prandelli ha detto faremo una brutta figura, no? Ve lo preannuncio, perché la partita è impegnativa e le gambe saranno ancora pesanti, ma l'obiettivo è Manaus, far bene contro l'Inghilterra il 14 giugno al nostro esordio, insomma. E lì poi ci seguiamo reciprocamente. Dario, senti, prenditi una piantina di geranio o di basilico, mi portatela dietro, forse contro le zanzare potrebbe essere. Qua sono tutte, sì, qua diciamo che gli abituali repellenti non servono a poco, sì, hanno un effetto placebo, ti danno un po' di coraggio, ecco, ti danno un po' di, ti rinfrancano momentaneamente, poi arriva la zanzara che beve la bottiglietta e fa il suo dovere. Un appello alle zanzare, lasciateci integro Dario Ricci, che poi ci serve, mi raccomando Dario, presto allora. grazie, mettici una buona parola, va. Ciao Dario, salutaci il Brasile. Ora invece restiamo su il tempo che ci sarà in Italia. È iniziata quest'estate, colonnello Mario Giuliacci, o no? Ciao Mario. Sì, ciao Roberta, un buonasera a tutti. Direi che è iniziata dopo questa settimana un po' primaverile, no? Con rovesci, nuvole, soprattutto al nord, questa volta l'estate fa sul serio e inizia col botto, cioè non inizia con tempo bello, soleggiato, temperature intorno 28-30 gradi come ci aspetteremmo, ma inizia una ondata di caldo domani in sordina, poi domenica invece esploderà in pieno con temperature già domenica di 33-34 gradi sull'Emilia, Basso Veneto, est della Lombardia, interno della Toscana, e poi da lunedì a mercoledì tre giorni roventi, soprattutto sul nord Italia, dove il 40% dei capoluoghi di provincia di pianura supereranno i 33 gradi, 34 diffusi, qualche 35 e qualche punta di solo isolata dei 36 gradi. Oltre al nord Italia ci sarà anche la Toscana, l'Umbria, il Lazio e la Sardegna con valore sempre prossimo a 33-34 gradi, e questo dicevo fino a mercoledì, insomma fino intorno al 12-13. Poi l'ondata di caldo dovrebbe esaurirsi intorno al 14-15 di giugno, insomma intorno alla metà del mese. Quindi una bella ondata di caldo, piacerà molto, perché chi sarà al mare se la godrà, voglio dire, piacerà di meno a chi sta in Valpadana, che i 34 gradi diventeranno 36-37 per effetto dell'umidità come temperatura percepita. Devo dire che io faccio eccezione, tu lo sai, colonnello Giuliacci, io sto bene 45 gradi all'ombra, diciamo, proprio anche in città per me vanno benissimo, insomma. Va bene, vedrò allora di accontentarti, ecco, anche se sei solo tu, però meriti di essere accontentato. Ma qualche accolito c'è, credo che ci sia qualche altro compagno di sventura. Grazie colonnello Mario Giuliacci, e per il resto www.meteogiuliacci.it. Ciao colonnello. Grazie Roberta, un caro saluto, un saluto agli ascoltatori, buonasera. Buon tempo a te colonnello, noi ci prendiamo un pochino di tempo e ritorniamo insieme tra pochi istanti.